140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche con la nostra pagina Facebook 140 caratteri. Come ogni settimana, mano a mano ci avete anche mandato in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Sky Italia, Milano. Un anno di attesa, un nuovo show, Aniene 2, una serata su Sky 1 per Corrado Guzzanti. E presentandolo ha fatto il manifesto della sua televisione ideale. Presumo per ragioni anche economiche, di costi, e questo accomuna sia Zeliche che altri spettacoli, una forma che era molto classica, che è anche la forma di Fiorello, insomma, di uno spettacolo, di una televisione molto classica, magari molto ben fatta e ricca di cose, con un artista sul palco che deve riempire, deve fare uno show che duri molto. Cioè, ho visto cose anche di tre ore che onestamente, anche se ci fossero i Monty Python, io farei, che sono i miei miti, il mio romanzo di formazione del caso, io farei fatica, ma che hanno comunque necessariamente un aspetto del teatro in televisione, del cabaret nel caso di Zeling, in cui si parla a un pubblico che è inquadrato e che poi ride. E nel caso di Zelig si presenta un comico e poi ne viene un altro e poi ne viene un altro, ce ne sono di bravissimi, non faccio un discorso sulla qualità ma sulla forma. E quello che si è un po' perso, secondo me, è un linguaggio specifico che era prima della televisione, in cui c'erano anche scene in cui la puntata era fatta anche di con una maggiore libertà creativa anche linguisticamente, c'erano sketch, insomma, voi pensate ai modelli che hanno ispirato tutti noi, il Saturday Night Live, appunto i Monty Python, delle cose, erano spettacoli un po' più ricchi, nel senso che uno in televisione vedeva delle cose che sono diverse dal teatro, insomma, mentre oggi questa forma, genio sul palco, un grande intrattenitore che parla col pubblico, poi è costretto a chiamare ad avere come ospite il cantante e canta col cantante, poi arriva il tennista e fanno la finta partita a te, cioè questa cosa qui, sulla quale io non ho nulla da dire e so che moltissimi la ama, mi preoccupa il fatto che sia diventata praticamente l'unica forma dello spettacolo comico in televisione. Ci ho messo molto a farmi un'opinione sul governo Monti. Alcune cose mi sembravano giuste, altre profondamente ingiuste. Sono rimasto indeciso fino ad oggi. Poi finalmente ho trovato la sintesi. E la mia opinione è questa. Sono degli eroi. Stanno risanando questo paese. Bastardi, ma chi ce li ha mandati? È un colpo di Stato. Dimissioni subito. Ci state mandando verso il baratro. Quindi bravo Monti, brava Fornero, continuate così, con coraggio e fermezza. Ma chi rappresenti? Ma chi ti ha votato? Derubate i poveracci, quelli che hanno sempre pagato? E non toccate la casta? Fascisti, nazisti, che Dio vi benedica. Ma ricordiamoci che c'era prima. Elezioni subito o veniamo sotto quei forconi? Sì, d'accordo, devo ancora lavorarci un po'. Mi si vede anche poco in televisione perché in realtà ho dei miei progetti privati, tra cui anche un film, scrivo un romanzo, faccio delle cose che... per rispetto del pubblico non mostro, ma qui continuo a lavorare e prendono tempo. Mi piacerebbe, in fondo, quello che stiamo cercando di fare con Sky, non so come andrà avanti, ma è di cercare di raggiungere una qualità visiva. Io poi sono un grande amante e consumatore di molte fiction, è una cosa che negli ultimi 10 anni mi ha preso. E onestamente vedo, a parte i programmi di informazione, vedo principalmente fiction e documentari, come vedete, insomma, la Bulbia nasce dalla mia malattia per i documentari. Idealmente fare un film è una cosa che mi piacerebbe molto, poi sto studio, insomma cerco di imparare il linguaggio e appropriarmene di più. Ah, quindi è lei quello che fa i palinsesti della Sette? Rotondo un po', ma niente di che. Eccala, scusa, te la vuoi. Prego, prego, faccia. Oh, dimmi. Ancora, ti ho già detto lo schema, oh. Manna Geppi Cucchiai da Bignardini e sposta Lili Cupe sulla fascia. Lili Cupe. Sposta la prima serata alle 10:30, così beccamo quando l'arti sgancia. Kat Lehner lo metti il sabato sera contro i balli. Perché non può ballare? Di shame, quanto ha fatto? 2:30, e che ha la pressione delle gomme. Un gioco in generale sul fatto che la Sette ha avuto delle difficoltà e forse anche fatto nei palinsesti delle scelte strane. Di Sabina io penso quello che ho detto a lei, semplicemente perché nel suo programma ci fossero cose molto belle, poi lei ha appunto questa idea di unire informazione e comicità. Semplicemente credo che non l'abbia aiutata appunto dover fare un programma così lungo, per scelte peraltro non sue. Lì c'è una c'è chi ne sa più di me, ma insomma questa corsa che fanno questa gara che fanno le televisioni per allungare i programmi il più possibile, superare le 11:30 perché sganciano, cioè, si vive con delle logiche che spesso poi sono anche non fruttifere, nel senso che poi questi guadagni non ci sono, che secondo me costringono, ovviamente dipende da spettacolo e spettacolo. Io ho sempre pensato che uno spettacolo comico debba mantenere, che non è così necessariamente così riposante, quindi chiede attenzione da parte del pubblico e i tempi di attenzione sono limitati per quanto si rida. Ho sempre pensato che la forma ideale sia di un'ora, forse un'ora e mezza. Poi ci sono dei performance, c'è Crozza, c'è Fiore, che sono capaci di tenere l'attenzione per lungo tempo, però in generale io ritengo che sarebbe meglio vedere lavori in cui gli artisti possono curare meglio le cose, avere più tempo per scriverle, per realizzarle e poi non dover sentire a volte la fatica di uno che deve fare 10 pezzi e poi deve avere 4 ospiti e poi deve avere 5 interruzioni musicali. Quando questo non è nelle sue intenzioni, cioè quando deve farlo semplicemente per durare il più a lungo possibile, insomma. Fiat presenta una macchina. Sedili per davanti e per dietro. Finestrini abbassabili a piacere. Più benzina ci metti e più lontano vai. Le marce a seconda del traffico. Vetro davanti trasparente. Motore a duplice stato, acceso o spento. Volante perfettamente girevole, sportelli apribili sia da dentro che da fuori, grazie alla doppia maniglia. Luci per la sera, rotelle in gomma per non sentire i bozzi, i pedali per i piedi. Questa è una macchina, nei migliori concessionari qualsiasi. Mi sa che Marchionne non si cura più tanto del mercato italiano, eh? Non l'abbiamo ancora programmato, ma credo che prima o poi lo faremo, perché insomma ogni tanto fare del teatro fa benissimo, perché rimette in circolo delle energie. Io mi diverto sempre molto, insomma, anche se non comincio la vita di tournée è un po' massacrante, è una cosa che da ragazzi diverte molto, ma poi conoscere a memoria gli autogrill cioè una serie di liturgie che dopo un po' sono pesanti, però lo faremo senz'altro. Adesso non so se quest'anno o l'anno prossimo, poi ho questo dramma che il mio amico e aiutante di sempre Marco Marzocca è emigrato, è andato a vivere negli Stati Uniti, quindi devo mandare qualcuno a prenderlo, insomma è un po' dispendioso, però credo che lo faremo ricapitare presto. Ci ritroviamo tra poco con 140 caratteri per parlare di musica. 140. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Parliamo di musica. Parole e dintorni, ufficio stampa, Milano. Maria e Michela, in arte Mamma Maria se Miss Michela, dalla Puglia con l'amore per il reggae, nel loro progetto al femminile We Ladies. L'amore per il reggae perché, insomma, alla fine il reggae è un genere unico, che è un po' come il blues, un po' come il soul, o ti piace o lo senti dentro o non ti piacerà mai, quindi per me particolarmente è nato questo amore per il reggae. Perché innanzitutto è nato l'amore per la musica da quando ero piccolina, per la mia famiglia di musicisti che mi ha cresciuto a pane e blues, insomma. Quindi visto lo stretto legame fra il blues e il reggae, poi in automatico verso i 13 anni sono andata verso il reggae. Quindi, insomma, è nata chiaramente come un po' tutti da Bob Marley, ascoltando una cassettina di Bob Marley, trovata fra le cose di mio padre. Quindi di là non ho più potuto fare a meno del reggae, ho iniziato suonandolo e poi man mano ho avuto anche un sound, sono stata con i ragazzi di Chiancatown di Matera e piano piano non mi bastava più speakerare alle serate e ho iniziato anche a cantare sul reggae, quindi tutto qua, insomma. Per me invece il reggae è arrivato qualche anno fa, esattamente 7 anni fa. Io ho all'attivo dei progetti di musica elettronica, in genere sono nata come cantante sulla drum and bass, sulla jungle, su generi praticamente sicuramente meno solari del reggae. Infatti ho una passione spropositata per le voci acide, per esempio ti posso citare Björk, che è una delle mie cantanti preferite. Ti potrei citare anche tutte quante le voci femminili che ruotano intorno ai progetti Massive Attack, oppure mi piacciono molto Portishead, insomma tutta quanta quella scena bristoliana, insomma, che ha dato vita al movimento trip hop, no? Io, quelle sono state praticamente gli ascolti con i quali io sono cresciuta. Poi vabbè, esplosa la passione per la musica elettronica, jungle, drum and bass, sicuramente generi molto underground in Italia, che infatti io tante volte mi trovavo a sentirmi assolutamente da sola, perché cercavo altri MC, altri cantanti che facessero le stesse cose, però eravamo veramente contati. Sì, perché di solito tutti gli altri iniziano da un genere e finiscono all'elettronica, invece lei ha iniziato proprio con l'elettronica, proprio un percorso al contrario, e poi è arrivato il reggae nella mia vita. Io sono salentina, per cui vuoi o non vuoi, vivendo in Salento ti scontri con il reggae, lì poi decidi se questo scontro deve essere positivo o meno, perché come giustamente ha detto Maria, il reggae o ti piace o non ti piace. Reggae, ma questo è un progetto molto femmina. Perché avrei notato che nel reggae sono quasi tutti maschi, quindi... Ma nella musica in generale, cioè in tanti generi musicali, se vogliamo contare la percentuale, sono più gli uomini delle donne, quindi la donna deve sempre sgomitare di più per farsi notare. Sì, sembra, in alcuni casi sembra quasi che se sale una donna sul palco e si mette a cantare sia quasi dovuto che tu gli debba fare un applauso perché è una donna, quindi già solo quello è un po' un handicap, quindi dice vabbè dai, è una donna però, brava, no? Quindi è un po' brutto questo, perché ci sono artisti bravi, che siano uomini o che siano donne, invece noi donne abbiamo sempre molti più ostacoli e molti più pregiudizi da affrontare, insomma. sensi che da sempre vorrei saziassero questo mio cuore. No, non giocare con me, no, mi ci potrei abituare. No, questo cuore no, non lo viziare. Fa che questo gioco molte difficoltà, voi parlate anche del lato difficile e pericoloso e insomma controverso dell'essere una donna, non solo da noi. Avete fatto un lavoro molto delicato sui testi proprio per quanto riguarda la femminilità. Sì, diciamo che abbiamo deciso di scrivere dei pezzi che non fossero pesanti all'ascolto. Volevamo che fossero dei pezzi che parlassero del mondo femminile e quasi con un piccolo sorriso, anche se si parla di problemi, perché in realtà noi crediamo fortemente che noi donne siamo tutte quante molto vicine l'una all'altra, indipendentemente dal paese di provenienza, dalla nazione. Io mi sento vicina alla donna africana come Maria si sente vicina, giusto per dire una cosa oggi che mi sembra molto, molto attuale, mi sento molto vicina alle donne greche, per esempio, no? Che stanno vivendo un periodo di grossissima crisi, mi sento vicina alle donne che si trovano dall'altra parte del mondo, perché anche se abbiamo culture differenti siamo donne, il fatto di essere donna accomuna insomma noi tutte attraverso questa sensibilità, quest'unione, questa condivisione di sentimenti e di sensibilità, insomma, che ci rende un po' insomma risvegliare la fierezza dell'essere donna, perché donna è anche un po' un periodo brutto per la donna per quanto riguarda appunto la figura della donna, perché per esempio noi non ci sentiamo ben rappresentate da un certo tipo di donna che invece viene proposta come modello anche dai mass media, dalla televisione. Tante cose non ci vanno bene. Imparerò a volare anche senza te, anche senza te, studiando le mie scelte per non sbagliare mai. Mi rialzerò ogni volta e non mi abbatterò. Sola, nei miei silenzi potrò ascoltarti ancora. Parole che ho nel cuore e nella mente. Però avete parlato anche d'amore, diciamolo, diciamolo. Ma meno male, cioè, perché sennò meno male. Eppure anche in amore noi donne siamo molto diverse dagli uomini, no? Perché pensiamo molto di più e diamo, cioè, abbiamo delle prospettive molto più ampie rispetto agli uomini, no? Gli uomini, anche il pezzo Ancora, il singolo, no? Che parla di una situazione normale dove due ragazzi si frequentano, lui non promette niente, lei va bene, gli sta bene pur di vivere il momento, però poi lei si ritrova coinvolta a un certo punto, invece l'uomo... L'uomo dice, vabbè, ma te l'avevo detto. E la donna dice, sì, ma io non è che sono di legno, che insomma dopo un poco non mi affeziono. Quindi insomma le donne, e ben vengano le donne sensibili, le donne mamme nel cuore, le donne che non sono invidiose delle altre donne, le donne che si mettono in gioco tranquillamente senza per forza ostentare una propria bellezza o una propria bravura, insomma. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno attraverso il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche la nostra pagina Facebook 140 caratteri. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.